Non siamo per niente in ritardo. Assolutamente. Cosa sarà mai un quarto d'ora? Alle 17:15 prende corpo la diretta di 100 Celle Avengers. Sigla! Credi che non vedi perché non sono più quelli che cerchi veramente. Si nutrono della paura della gente. Certo c'è la legge, la musica si riprende. È incredibile, ce l'abbiamo fatta, dicevo, per niente in ritardo a fare questa 21esima puntata di 100 Celle Avengers in diretta dal soppalco di Radio Forte in Forte Prenestino. Yahoo! Qui con me non sono mai solo, c'è quasi tutta la ciurma. Alla mia destra ai comandi, a farci stare tranquilli al mixer, c'è Silvano. Ho levato il riverbero al momento giusto, sì! Perfetto, alla mia sinistra a raccontarci cose sugli avvocati che non ci interessano c'è la Gabri. Ciao! E ancora più in là a dirci cose dei Beatles che interessano ancora di meno c'è Virginia. Uffa, ho preso ciao. Questa cosa del dissing e quindi all'ultimo dirò che invece a impreziosire la nostra trasmissione col suo angolo culturale c'è la professoressa Viola. Grazie, buonasera a tutti. Virginia e come abbandona al solito, il gruppo. E come al solito Virginia ha abbandonato il gruppo, ma soprattutto lo ha abbandonato Iron Man, che ormai non fa più niente in questa trasmissione, anzi soprattutto oggi Iron Man non ti possiamo dedicare neanche un secondo perché siamo gonfi di contenuti. Una puntata infatti dominata, dovrei stare zitto da adesso perché è dominata appunto dal mio ma quanto vi sono mancato anzitutto, vogliamo dirlo? Tantissimo, maestro, non sapevamo proprio cosa fare. Grazie, scusa, avevo lasciato pure delle cose qui e non potevo riprenderle, ma lei non c'era. Grazie per la cosa spontanea. Comunque non posso che dire era barbaro. Comunque ci eravamo lasciati appunto con questa mia partenza per l'Umbria Jazz, così entusiasta, e adesso io appunto voi mi siete mancati più di quanto io a voi, e quindi per dimostrarvelo vi ho portato un mattone, diciamo un'opera radiofonica sempre pionieristica, a sfruttare il mezzo. Questo è un racconto per suoni del Festival Umbria Jazz che si è svolto quest'anno, ma non sarà solo questo a tenerci botta in questa puntatona da meno di due ore perché siamo andati in ritardo. Ci saranno le nostre rubriche meravigliose con Silli, Assilli, con Gabri, Grubri e tutte le rubriche che ormai tutti conoscono, per quello non c'è neanche bisogno che io lo dica. Dico soltanto per chiudere che ci sono dei contatti, no? Ma sì, come al solito c'è il nostro canale Telegram, quindi mi raccomando scriveteci, mandate dei messaggi vocali perché vorremmo tanto mandarli, e niente, poi avete i nostri amici WhatsApp, perché per adesso veramente io mi riduco anche a questo, scriveteci anche lì, io li e passo. Poi possiamo vederci, possiamo vederci. Poi c'è Gizzi, per sì, fortuna. Ricordiamo sempre che qualcuno vuole vederci, la solita stanza siamo Gizzi. Qui. Che si chiama? www.gizzimit.org. No, Gizzimit. Però se non hai il nome della stanza Music poi non Forte sei Factory. Slash musicfortefactory. Scritto tutto avvicinato. Molto molto bene. Quindi con questa apertura al fulmicotone io direi di mettere una roba che non mettiamo mai, un gruppo mai sentito su Radio Forte 100 Celle Avengers, i Wolfpack. My favorite baseball team, too. No, it's not. Yes, it is. Wow. Here we go. Oh, here we go. DiMaggio. Two for two. Perfect Street. Two for three. This one. But it's still on. Swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing. swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing. 1998, it's the World Series in Cleveland. I went with my dad and Joe Table. Well, he blew it. So now I root for the New York Yankees with Bartoli Colon. He's throwing 101 in the ninth inning. Well, he's the best. Come on, one. DiMaggio. 2 for 2. Perfect streak. 2 for 3. This one, but it's still on. See it in. I will pitch a pass off. Get it run from the third base line. Oh. Woody Gosch performing the seventh inning stretch on Hammond B3. E ritorniamo in diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers con il preannunciato primo mattone riguardante questo bellissimo festival che è stato l'Umbria Jazz 2021. Io non lo so, prima di vorrei mettere 100.000 mani avanti prima di mandare in play questa cosa. No, dirò soltanto che ovviamente il punto di vista privilegiato, ecco, di coloro che stendono i capi sul palco, quindi diciamo anche l'audio, cioè è inutile che io vi dica quanto possa essere proibito registrare l'Umbria Jazz e quanto quindi appunto potessi rischiare con questo DR100 che tutti conoscono, il nostro amichetto discreto. Beh, allora dica che è una ricostruzione che abbiamo rifatto io e lei. Come ho detto, è un racconto per suoni, un racconto per suoni del festival. Allora, bando alle ciance, ciancio alle bande, Umbria Jazz Edition 100 Celle Avengers. Sono le 9, qui su Radio Forte 100 Celle Avengers. Primo giorno di lavoro, ci troviamo ai piedi del San Gallo. È incredibile, si va a lavorare a piedi, siamo in attesa di Claudio e Tommy, con il dubbio che loro siano già andati, ma noi resteremo qui, cioè Willy no, Willy è già andato perché... E siamo al primo ammutinamento su Radio Forte 100 Celle Avengers. Willy voleva andare, Tommy niente, cicchino sotto il San Gallo, si è in ritardo, già 9:15, si è ancora qui, vabbè, si va a lavorare a piedi, ma comunque c'è tempo. E sempre Radio Forte 100 Celle Avengers, il primo intoppo, incredibile, primo intoppo, siamo in fila per il tampone. Previsti tempi circa una mezz'oretta, tre quarti d'ora. Willy è contento, Tommy anche. Vogliamo dire che abbiamo le singole anche, quindi io e Tommy non si è parlato, non c'è stata quella rubrica su 100 Celle Avengers. Io so cose che te non sai, che di solito si fa il primo giorno. Io ve lo dico, l'ha appena tirato fuori, ma domani glielo schiaccio sto registratore. Chiedo scusa per l'audio, tolgo la mascherina, adesso si dovrebbe sentire meglio. Ho messo una FFPPP. Quindi si diceva, Tommy sa cose che noi non sappiamo, perché Tommy viaggia con Willy ogni anno, un po' perché gli piace a Willy viaggiare insieme, un po' perché ha il braccino corto. Allora lui arriva da Trieste fino a Firenze e poi da Firenze a Perugia insieme. Loro decidono cose che poi mi vengono comunicate come già decise, piano piano, col contagocce. Non ti diremo niente. Per adesso non sappiamo niente, infatti vi terremo aggiornati su 100 Celle Avengers, Radio Forte. Ma più che altro perché volevo su 100 Celle Avengers Radio Forte far sentire il suono originale di un baule che si chiude e la pausa pranzo che si palesa. No, non è venuto bene. Meglio. This is a butterfly closing baule. E sempre su Radio Forte 100 Celle Avengers l'allestimento è finito. Non è vero. Il rumore che sentite sono le diagonali montate nella nostra baia, una ogni 2 metri, il cui suono è originale, con caschetto anti-infortunistico. Queste diagonali non c'erano, quest'anno ci sono. Per Radio Forte, 100 Celle Avengers, versione Umbria Jazz. È tutto, pausa pranzo. E siamo alla buonanotte su Radio Forte, 100 Celle Avengers, Umbria Jazz Edition, Special Edition. Si conclude questa prima giornata di allestimenti a Modino, all'insegna del si è sempre fatto così, io mi ricordo che si faceva così, tutti facevamo finta di ricordare com'era, è stato molto bello, ora siamo molto stanchi anche per questo e vi diamo appuntamento a domani con eventi molto attesi come il line check previsto probabilmente per la nottata. Buonanotte, questo è il suono di una doccia. E buongiorno da Radio Forte, 100 Celle Avengers, Umbria Jazz Edition, secondo giorno d'allestimento. Siamo qui in balconata di fronte al meraviglioso panorama della stazione di Pullman. Sono le 8.40 e io sono il primo. Ma perché sono il primo? Mannaggia il cazzo, potevo stare su. Oggi il sole non c'è, promette addirittura di piovere. Molto bene per essere il secondo giorno. Non vi anticipo nulla. E siamo di nuovo qui, Radio Forte, 100 Celle Avengers, secondo giorno di allestimento, tutto a Modino, un allestimento all'insegna del si è sempre fatto così, io mi ricordo così e quindi si fa così. Anche oggi sarà una bellissima giornata, ma io voglio sentirlo dire da Tommy. Giornata un cazzo buona. Molto bene, a dopo. Radio Forte, 100 Celle Avengers, questo è il container. Dobbiamo mettere dei coperchi almeno, capito? Giusto. Ma esperienza, guarda, ci sta più bello. Vita da container. Crimpa. E usciva. Radio Forte, 100 Celle Avengers, entriamo nel vivo, cominciamo a aprire i primi file PDF, incredibile. JLCO che sta per? Junior Lincoln Center Orchestra. Jazz Lincoln, comunque Junior ci stava anche bene, grazie Tommy per questo arricchimento, sempre sul pezzo. Daniele, c'è da spostare la tua macchina. Allora chiudo. Radio Forte, 100 Celle Avengers, il momento del line check. Dov'è Tommy? Doveva essere il Tinti designato per il line check, ma non si trova. Ecco, lo vedo comparire, non so se è emozionato per il motivo di qui sopra. L'ha trovato. Tinti mi lascia da solo a fare il line check. Ecco, siamo giunti all'evento della serata. Inaspettatamente ancora sono le 5. Sono le 6.43, già stiamo di line check, verranno testati tutti i canali del sistema. E di nuovo Radio Forte, 100 Celle Avengers, non era vero niente, non, come di consueto il line check è stato rimandato, come il CDA di una grossa azienda, esattamente. Poiché questo line check, di questo line check si parlerà per giorni e giorni e giorni. Da questo line check dipende il buon andamento del festival. Per questo non può avvenire così in tempo rapido 1-1-2-2-2-3-3-3, ma verrà centellinato attraverso questa giornata di attesa. Incredibile. E si è prematuramente gridato al line check su Radio Forte, 100 Celle Avengers. Sono circa le 7 e, scusate, controllo perché la diretta comunque non mente, sono le 19.03 e ancora il canale 1 attende di essere checcato, quindi in realtà tutto è come nelle altre edizioni. Smentiamo questa notizia che si era avuta di line check alle 5. Incredibile. Prematuro. Comunque il Tinti è di volata come sempre. È incredibile, improvvisamente sembrerebbe sbloccata la situazione. Vediamo il fonico di sala che raggiunge la sala, il fonico di palco che raggiunge il palco. Io raggiungo il microfono numero 1 e comincio questo line check su Radio Forte, 100 Celle Avengers. Alle 19.05. Abbiamo un direttore di palco alla sua prima sulla arena, Santa Giuliana, come si dice. Ciao. Alessandro! Ciao a tutti, piacere, sono onorato di essere qua. The Scala Mount Pitcher presenta Alessandro on stage. Ma la cosa importante è registrare tutto il line check dal numero 1 a quanto arriviamo? Ci dica Tinti, quanti canali dobbiamo testare? 8, 16, 24, 48. Solo 48. Siamo sempre collegati su canale 1, Radio Forte, 100 Celle Avengers. Canale 1. Continua. Canale 1, prova. 1, 2, canale 1. Canale 1 è più importante degli altri canali. Vedrete che dopo il canale 1 ci sarà una svolta, io credo. Canale 1, canale 1, canale 1, canale 1. E ora canale 1. Canale Mi sento di intervenire solo per far notare, siamo in diretta, la meticolosità con cui all'Umbria Jazz si svolge il line check di ogni singolo canale. Grazie. 48, 48, 48. Martedì piove, Radio Forte, Centocelle Avengers, datemi la buonanotte, perché potrebbe essere l'ultima volta che c'è questa serenità, da domani parti in nervo, quindi buonanotte a tutti e magari ci risentiamo direttamente il 19 alla partenza con la diagnosi. E buongiorno Radio Forte, Centocelle Avengers, incredibile, pensavamo di non collegarci, invece siamo qui a Arena Santa Giuliana, primo giorno di festival, incredibile, Tommy sta verniciando il monitor numero 1. Ma per dare un'idea, con un solo rumore, un solo campione del nervo che si registra qui, questo ascoltatore è gaffa vero. Jazz at Lincoln Orchestra with Wynton Marsalis and Emmett Cohen Trio. Chissà stasera. Tommy torna, l'aria è tesa, abbiamo lasciato il caffè sul fuoco solo per seguire questa cosa in collegamento. Il caffè probabilmente si sta bruciando, ma ne valeva la pena. Radio Forte, Centocelle Avengers, si conclude questa prima giornata di festival. Jazz at Lincoln Center Orchestra, Wynton Marsalis e Emmett Cohen Trio, portati a casa a Modino all'insegna del si è sempre fatto così. Io mi ricordo così, e questo è il suono della doccia. Buongiorno Radio Forte, Centocelle Avengers, 10 luglio, secondo giorno di festival, sono in ritardo al tampone, secondo tampone del festival, non ho comprato il tabacco, non ho prelevato, sono nella merda, si annuncia una giornata senza beni di prima necessità. Però oggi è il giorno di Bollani, e quindi oggi l'evento che tutti aspetteranno è il collaudo del piano del maestro Bollani, che avverrà a mezzo delle mie indegne dita, della mia indegna mano, chissà. E Radio Forte, Centocelle Avengers, anche quest'anno la giornata di Bollani abbiamo trovato il modo di complicarla. Allora, sono quei quattro canali sempre, però abbiamo due monitor, però i due monitor si provano, si tolgano e si rimettano quando? Ma basta non dire altro. Durante gli encovers. Che so gli encovers? Te non ti preoccupare. La band inglese. La band inglese che entra, fa un pezzo e poi si smonta. Gli encovers. Niente, anche oggi niente, ve lo dico. Si rincorrono le voci secondo le quali Bollani avrebbe due microfoni voce. Ma non si sa se a cavo o radio appoggiato sul piano. E non si sa se userà quello di sinistra o quello di destra. Fatto sta che noi staremo sul pezzo tutto il tempo, uno a destra e uno a sinistra del palco, con l'intercom nel... No, senza intercom. Niente intercom. Se ci sono dei problemi sarei a fare Suarez! Da una parte all'altra, esatto. Ma tutto andrà bene, l'obiettivo del nervo sarà raggiunto anche oggi. Vi aggiorneremo, sono solo le 11:30 tipo, e già notizie si rincorrono una dietro l'altra. Radio Forte, Centocelle Avengers, il check del Billy Hart Quartet. che verranno dopo Bollani. Siamo in un punto privilegiato dove si sente veramente, veramente bene. Si può apprezzare tutti i colori dei suoni. Accendo il registratore e smetto. Ma dimmi te, già è una bevuta sto coso? Arriva però su 100 celle Avengers Radio Forte Pedro. Incredibile, grande assente di questa edizione, Pedro. Vuoi salutare gli ascoltatori, per favore? Salve, buon saluto, sì, prova. Grazie Pedro, nostro compagno di tante edizioni dell'Umbria Jazz. Alla batteria un ultra ottantenne, continua il check di Billy Hart, Guglielmo Hore, detto Guglielmo Hore. Radio Forte 100 celle Avengers, è arrivato il fonico di Bollani, si avvicina il momento che tutti, no, che solo io aspettavo. Sarò anche quest'anno messo alla berlina, chi lo sa. Mi guarda storto. Allora, già mi ha suonato in faccia mentre stavo cablando sotto il pianoforte, quindi non so se questa cosa la farò poi. Ma il dilemma della serata è: ma il monitor e la voce della moglie del Bolla in scena chi gli mette? Suarez o Tinti? Sicuramente Tinti. No, Suarez il prediletto. Tinti è dato per 10-1. Nulla, lo vuoi dire tu? Imperialisti maledetti, bastardi. Hanno sostituito il nostro grande Suarez al soundcheck di Bollani, dove avrebbe fatto il suo immenso repertorio con Maurizio Costanzo Show e Paolo Conte. E invece adesso abbiamo l'accordatore che sta facendo degli accordi del cazzo, veramente, due palle. Cioè, che delusione. Senza animo. E come ha detto Tommy, la triste notizia è arrivata, purtroppo non so se questo festival proseguirà con la stessa lena, con lo stesso ottimismo con cui è andato avanti fino ad oggi. Purtroppo mi sento un po' defraudato, un po' così. Mi hanno tolto uno dei momenti più belli, non dell'Umbria Jazz, dell'anno, per il quale mi vantavo per tutto il resto dell'anno, e niente, quest'anno è andata così. Non è il lavoro che uccide, è il tempo libero. Quando si ha troppo tempo libero, qui all'Umbria Jazz ci si fa del male. Tommy, quando comincia un discorso scappa, i toscani hanno rovinato l'Italia. I toscani hanno rovinato l'Umbria. Radio Forte 100 celle Avengers, ci hanno dato 20 secondi per portare dentro il monitor e l'asta. Sopra i 20 secondi saremmo bollati come imbecilli. Ci hanno fregato anche stavolta. Eccolo. Amo, il fonico di Bollani non mi ha fatto suonare il piano. Oh no, amore, mi dispiace tantissimo, so che ti teneri tanto. E poi lo sai, hanno detto che non posso neanche toccare il pianoforte. Addirittura? Dice che questo che abbiamo quest'anno è nuovo, quindi non lo può toccare nessuno. L'ha detto Mister Fazioli. E quindi quest'anno non posso proprio toccare il pianoforte sul palco. Cioè io praticamente... Ma non è per il Covid, è proprio perché il pianoforte è nuovo e persone non degne di quel nome, Fazioli, non possono toccarlo. Per farci poi lo stacchetto degli Avengers, per di più. E quindi niente. Quest'anno niente piano, niente Bollani, mi toccherà confessare a tutti che io a Umbria Jazz tiro i cavi e non faccio il fonico. Domani in diretta lo dirò. Dicevo appunto che la mia vita qui all'Umbria Jazz è un po' fantasma. Sono nella 305, unica stanza con balconcino, e lotterò per averla, per tenerla, perché me la vogliono cambiare. Quindi la mia vita all'albergo San Gallo si muove fra il più 3, il piano meno 1 dove si mangia, il piano meno 2 dove si esce, ma lo 0 si eviterà per il resto del festival. Almeno questa soddisfazione ce la vogliamo tenere su Radio Forte 100 celle Avengers. Grazie. Radio Forte 100 Celle Avengers, terzo giorno di festival, 11 luglio. Oggi triplo set. Abbiamo prima Rava e Hersh in duo, tromba e... State buoni, sto parlando? Tromba e pianoforte. Poi abbiamo Rava sestetto con Dino Piana, Roberto Gatto e tutti i vari protagonisti dell'Italia del jazz. E a finire, dopo la partita Italia-Inghilterra, a prescindere da come finirà, avremo il vecchio Julian Lage, che poi non è vecchio, ma è giovane. E probabilmente vivrà una sensazione di concerto un po' particolare. Una giornata poi impiegata in sofisticazioni che ci inculano sempre, noi palchisti, perché volevo dirvi, il palchista vive una vita dominata dalla dinamica del 50% di possibilità di sbagliare. È tutta una vita fatta di left e right, basse e alte, conga left, conga right, e tu che devi cablare hai sempre, sempre, sempre il 50% di possibilità di fare la cappella. E io già l'ho fatta. Il primo giorno il pianoforte, basse e alte sono state scambiate. Il fonico che scambia le basse con le alte non fa una bella figura, ma io infatti sono il palchista qui. Si sta esibendo Enrico Rava. Tra 15 minuti abbiamo il cambio palco e abbiamo 15 minuti. Ieri abbiamo sforato, ci abbiamo messo 35 secondi invece di 20. Chissà come andrà oggi. Radio Forte, 100 Celle Avengers, il cambio palco. 20.04, il cambio è durato circa 6 minuti e mezzo. Non lo so, ho fatto dei conti più o meno a braccio. Siamo partiti da qui che erano e 58. Bravi, bravi tutti, bravi tutti. Radio Forte 100 Celle Avengers, come potete sentire da emotivo, questo non è jazz, questa è l'Italia che ha vinto l'Europeo e purtroppo noi continuiamo a lavorare. Dopo la partita c'è un concerto, ebbene sì, è mezzanotte e noi a quest'ora avremmo finito, invece grazie all'Italia adesso continuiamo. Evviva l'Italia, evviva il jazz! E ritorniamo in diretta dopo questo mattone di radiofonia, di pura radiofonia, per il quale vi chiedo un commento a questo punto. Le cose si fanno a modo. A modino. A modino. A modino secondo la tradizione. Molto interessante. Virginia si è addormentata però. Io sono addormentata, ho aggiunto un ammodino. Vabbè, comunque è stato pesante per me, quindi figuriamoci per voi. Nel senso, riascoltare tutte queste volte, cioè comunque si capiva che era Radio Forte 100 Celle Avengers, se non altro. A me è piaciuta questa avventura di questo personaggio Suarez, che sta lì, che è una vita che vuole sognare un piano, che poi non glielo fanno suonare, che poi sì. Però c'ha la rivincita nella stanza, nel balconcino della stanza, è bellissima. A me si è genuinamente spezzato il cuore per tutta la storia di Bollani, ecco. Anche perché nessuno ha suonato Cyndi Lauper nell'Umbria 2. Immagino. No, assolutamente. Esatto. Ma poi quel piano? Poi quel piano, vabbè, scopriremo più avanti nel prossimo mattone. Che fine ha fatto? No, non è vero. comunque ogni tanto sì, ho fatto un paio di stacchetti fugaci. Di solito veramente ne approfittavo molto di più, ma quest'anno appunto c'è stata questa storia che è pur vera, l'abbiamo drammatizzata con la telefonata di Gabri, ma era la verità. Il pianoforte quest'anno non era così alla mercé di tutti. Toccabile. Quindi io comunque posso dire un'ultima cosa, prego, non so, prego, se vi siete accorti, come questo piccolo commento a margine, e come cambiano le inflessioni linguistiche, sì. Voglio dire, cioè il suonone parla fiorentino, sì. Si è notato tantissimo, è in Umbria dal parte primo. Da Roma arriva lì. Sì, mi ero chiesto se fare un disclaimer, poi ho pensato che dopo un po' che si sentiva anche Tommy, voi avreste capito che insomma che c'era tutta un'influenza lì fra l'umbro e il fiorentino, in cui io poi risulto praticamente il più meridionale di tutti, perché poi il resto della gente vengono da ancora più su. E quindi niente, prendo l'accento del più basso. Lei è osmotico. Beh, maestro. Sì, poi quando sono arrivata io, insomma, ecco, abbiamo subito riapparato i conti. Ecco, il calabrese è tornato, devo dire, un po' predominante. E stiamo infatti spoilerando che poi in questa cornice incredibile è arrivata anche la Gabri. Ma a proposito della Gabri, mettiamo un pezzo che a lei piace moltissimo e che ha rappresentato più o meno, diciamo, il tormentone di questo Umbria Jazz. Cioè, io avrei voluto suonare sempre questo al pianoforte, invece poi non l'ho praticamente mai potuto fare. Perché? Perché lo faceva Bollani con la moglie. Dozzinale, pezzo brasileiro. Nana. Uma casinha feita a mão. Uma floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pés no chão. E vou plantar abacaxi com banana, mandioca, cacau, batata doce, feijão, palmito e um café bem bonito. Pela na sombra da goiaba e do mamão, sob a copa do coqueiro, açaí, abacateiro, cajueiro, maracujá, vilamoa, seringueira, guapuru, na beira, contemplando uma vista pro mar. Eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pés no chão. Feita a mão, uma floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pés no chão. E vai ter trilha pro rio, cachoeira, cascata no pé, o tutu, cano e canto do sabiá, do voar da borboleta, a saíra bem faceira, fica espreita na procura do jantar. Abelha nativa fazendo colmeia, colhendo pra lá e pra cá. Espero que tenha um fogão a lenha e muito pra que celebrar. Que eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pés no chão. Oh, hey. Eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pés no chão. Apagar a ilusão de que é bom é o que produz demais. Confiar na natureza se mancha a tua beleza com veneno e outras coisas más. Tem uns 8 cachorros pra fazer a festa bem logo assim que eu chegar. Sem a sua moleza, curtir com firmeza aquilo que a terra nos dá. Quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pés no chão. Eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar. saudade pesa no chão. E quer morar numa casinha feita à mão, uma floresta onde eu possa plantar o que eu quiser. E andar de pés no E siamo di nuovo su Radio Forte 100 Celle Avengers. Cosa sta per succedere, maestra professoressa Viola? Sì, che adesso partiremo con la rubrica, diciamo, del saggio, no? Del saggio che c'è stato. Cioè, così, detta così, veramente noi abbiamo una rubrica che ha una sigla addirittura. Le parole, sì, sono importanti. Le parole sono importanti. Sì, e quindi appunto la canzone che andremo ad ascoltare e fa parte del gruppo dei Sumeri. E vuoi parlarci della canzone, maestro, oppure elenco i... Chiedo scusa. 100 celle a Marcord. Ecco, i devices volevano puntualizzare. Sì, chiedo scusa. Io dico, tu non presenti. Meno male che abbiamo i devices, perché io proprio... Allora, i devices volevano anche lanciare la sigla. Intelligenza artificiale, diciamo. E quindi possiamo, presenta i devices. Possiamo dirlo per amore della, così, dell'ordine. Sì. Sigla. Ricordati di te com'eri prima. Un'estate fa. L'anno vecchio è finito ormai. Un'estate fa, ti ricordi? Un'estate fa, tutti quanti stiamo già aspettando. Un'estate fa, messaggio che è un nuovo anno. Mi ricordo che anni fa. Un'estate fa, ricordati di me. Ah, è sempre un piacere questa sigla, più la sento più mi piace. E quindi che cosa dicevamo? Ascolteremo un pezzo di Daft Punk cantato da Emanuela. E poi c'è Simone alla chitarra, Fabrizio al basso, Giuseppe alla batteria e poi il maestro Suano alla tastiera. Ma soprattutto, sì, c'è la post-produzione. Era finita la formazione? Sì, la formazione è finita. Sì. Ma come la post-produzione? C'è la post-produzione. Cioè, questo pezzo ci regala l'occasione sia di riparlare un'altra volta di Rise and Fall, quella rubrica che ancora non ha preso corpo, ma che comunque parla dei divorzi. Ce la faremo. C'è stato il divorzio di Daft Punk, che è avvenuto veramente in maniera così un po'. Inaspettata, anche un po'. Non voglio dire squallida, ma così. Secondo me, se sono proprio telefonati. Oh, se sciogliamo, dai. Piamo una cosa che abbiamo già fatto, un video che abbiamo già fatto. 7 minuti, la gente sta ancora dal ritmo che si siamo sciolti, e così è andata. E quindi noi l'abbiamo voluti onorare. Oltre a questo, dicevo che è l'epoca della post-produzione, cioè quel momento in cui le tracce del multitraccia del saggio vengono finalmente elaborate in maniera un po' più, insomma, veramente cominciano quelle pippe mentali mie di fare la versione di come avrei voluto che andasse. Cosa è successo su Instant Crush dei Daft Punk? Che c'era un effetto voce alla voce di Emanuela, che salutiamo. Ciao Manu. Ciao Manu. Che avevamo provato svariate volte, era fighissimo, ci stava benissimo, e mi hanno detto che io ero sul palco, che non si è sentito molto niente. Da fuori. Non dire niente, cazzo, sto dicendo un non molto. Che c'è Giorgino che ci vede, poco. C'era Giorgino al mix, però non è colpa di Giorgino questa volta. Vabbè, comunque, insomma, quello che volevo dire è che sempre abbiamo chiamato in casa Giorgio. Abbiamo comunque registrato quella traccia, quella cosa è successa, quindi ci sembrava giusto comunque restituire una versione di Instant Crush cantata da Manuela che presentasse codesti artifici. Buon ascolto. Thank you. siamo di nuovo in diretta su Radio Forte 100 Cell Avengers. Abbiamo sentito Instant Crush, bomba, dei Sumeri. Maestro, voglio anch'io l'autotune. Con la macchinetta, non si dice autotune, si dice macchinetta. Brava, metta Manu. La macchinetta. Comunque brava Manu, brava Manu. E passiamo al secondo mattone, questa volta sarà più breve, ve lo giuro. Riguardante questa splendida avventura vissuta in quel dell'Umbria, in Perugia, e niente, che dire, qui l'atmosfera si era un po', cioè, continuavo io con le mie riflessioni sul lavoro, sulle cose che facciamo inutili, sulla possibilità di sbagliare anche cose banali che ti fa sentire ancora più stupido, insomma, e queste cose girate, questi piani girati, questo lo dico anche a disclaimer ai miei amici del palco, che ho deluso ogni volta scambiando il left con il right, e come quella volta, vabbè, lasciamo perdere, andiamo. Radio Forte 100 Celle Avengers. Quarto giorno di concerto, sesto giorno di lavoro. In attesa di Cecil McLaurin and accompagnata dal grande, grandissimo. Madonna, non mi ricordo niente. Cecil McLaurin Sauban and Sullivan Fortner. Seguiti da Bocanté. Formazione etnica di Snarky Puppy, incredibile, incredibile, però già l'abbiamo fatto, già abbiamo fatto il check, e questo è il tono sereno, ma mai troppo, c'è un altro pianoforte da sbagliare. Radio Forte 100 Celle Avengers, benvenuti alla metà del film. Siamo in effetti arrivati alla metà del festival, siamo al settimo giorno, quinto giorno di concerto, settimo giorno di lavori, terzo tampone. Oggi day off, doveva esibirsi Petrella, ma poiché è prevista pioggia a catinelle dalle 6 di pomeriggio, il concerto è stato spostato al teatro Morlacchi in centro. Questo ci consente di stare un po' in tranquillità, sentite l'audio di questa stanza così tranquilla, tipico del day off, e tirare un po' le somme di questa metà festival. Abbiamo passato tante giornate senza poterci neanche collegare perché il rischio era che il DR100 prendesse il volo. Ho chiesto molto la pazienza dei miei compagneros. E dicevamo su Radio Forte 100 Celle Avengers. Radio Forte 100 Celle Avengers, soundcheck di Brad Meldau Trio. In ordine invertito ci sarà il soundcheck quindi di Brad Meldau, poi ci sarà il soundcheck di Branford Marsalis e poi però si esibirà di nuovo Brad Meldau e poi quindi poi ci sarà il cambio palco di nuovo con Branford Marsalis. Una di quelle serate in cui ci si impiccia, quindi ci sono dei colori di palco ferrei. Brad Meldau Trio arancione o rosso, Branford Marsalis verde, le scette verdi. Il nervo è sufficientemente sviluppato. Chissà come andrà oggi il doppio cambio palco virtuale. Da Radio Forte 100 Celle Avengers questo è tutto, chissà se raccogliamo un commento di Tommy. Ciao. Incredibile. Sempre prolisso Tommy, prolisso. Chissà che viene da Firenze, la Toscana, la patria di Dante, inventore della lingua italiana. Radio Forte 100 Celle Avengers. Si sta esibendo Branford Marsalis. Il cambio palco è andato bene. Mazza e palle, Gezio. Radio Forte 100 Celle Avengers. Perché improvvisamente non si parla più di canali, channel list e si parla di tamponi, pulizie, igiene? Oggi, giovedì 15 luglio, abbiamo una doppia, Paolo Fresu e Imani Vuducello. C'è un positivo. Dio Hane. Radio Forte 100 Celle Avengers, questo silenzio testimonia l'arrivo del terzo positivo. Al terzo positivo il palco si è svuotato. La domanda è, ma noi perché siamo ancora qui? Perché l'audio comunque è importante. Aspettiamo di scoprire se il concerto verrà cancellato e noi quarantenati. Atmosfera che ricorda un po' i turni da Amici di Maria di Filippi nel marzo-aprile 2020. Quando si microfonava la gente tirandogli il microfono. Vi terremo aggiornati. Radio Forte 100 Celle Avengers. Covid Session. Ci voleva il momento Covid. Sembrava troppo bello per essere vero. Attenzione, il terzo positivo fa parte della squadra di facchini, quelli che ci aiutano tutti i giorni dall'inizio del festival a oggi. Gli aggiornamenti non sono buoni, siamo ancora sul palco. Aspettiamo. Quindi. Radio Forte 100 Celle Avengers continua l'attesa del non saper che fare. Ricordiamo due musicisti positivi nella crew di Imani Vuducello più un facchino positivo. Siamo in stasi totale e non c'è mai stata così tanta gente nella nostra area di palco. Ma c'è, avete una casa, mo tutti i luciari, tutti i backliner, tutti qua a farsi le canne. E a parte questo momento di solidarietà, abbiamo più che altro il dubbio di cosa succederà dopo, perché adesso i francesi se ne sono andati, non continuano, non fanno il loro soundcheck, non fanno il loro e se poi dovesse essere che invece tutto a posto si fa, noi per fare Paolo Fresu abbiamo mezz'ora al fulmicotone, quindi come al solito ci torna bene sempre a noi il boomerang. Radio Forte 100 Celle Avengers, il check di Paolo Fresu con la sua formazione tributo a David Bowie, alla batteria, tra parentesi, Christian Mayer. Incredibile. Dei francesi non si è più saputo nulla. Radio Forte 100 Celle Avengers, è finito il caffè. Nessuno vuole andarlo a prendere. Andrò in missione. Radio Forte 100 Celle Avengers, si conclude questa 8ª giornata di concerto, 10ª giornata di lavoro, siamo agli sgoccioli, giornata all'insegna del Covid, 7 casi. Occhi e orecchie puntati sul tampone di domani mattina, non c'è altro, il cambio palco è andato benissimo, ce ne fossero cambi palco così, e da 100 Celle Avengers, Umbria Jazz, buonanotte. Radio Forte 100 Celle Avengers, 9ª giornata di concerto, 11ª giornata di lavoro, venerdì 16 luglio. Tampone negativo questa mattina, abbiamo fatto la spesa, abbiamo riempito il frigo e ci prepariamo per il setup di Angelique Kidjo. Altri francesi. Questa notte i francesi infetti hanno dormito nella stanza accanto alla mia, alla 306. Li ho sentiti stamattina che facevano colazione portata in camera e io sgattaiolavo via. Altra notizia degna di nota che ci porta grande tristezza, il fatto che sono stati rilevati due positivi nella crew di Cima Funk, il che ha fatto zompare il concerto di Cima Funk. Avevamo parlato di questa giornata di sabato 17 luglio come l'epocale cambio palco, 37 canali contro 37 canali in 20 minuti. Bene, tutto questo non avverrà, ripeto, non avverrà, e noi siamo tutti molto tristi per questo fatto. Per il resto, ci prepariamo anche all'arrivo dell'avvocato. Ebbene sì, la Gabri verrà qui a Perugia a condurre 100 Celle Avengers Umbria Jazz Special Edition. Radio Forte 100 Celle Avengers, questa è la mia unica possibilità di toccare il Fazioli. Claudio è lontano, sta ancora mangiando. Siamo rientrati prima. Centocelle Avengers. Daniele on live sul Fazzoli dell'Arena Santa Giuliana. Io quiero morar. Ascoltando Radio Forte, e questo è 100 Celle Avengers. Questa trasmissione è un patchwork di musica passata, presente e futura, tutta orbitante attorno ai progetti del Forte. Dalla scuola di musica performance live, passando per un po' di sana follia che non guasta mai. 100 Celle Avengers, la musica si difende. E quindi torniamo in diretta su 100 Celle Avengers Radio 40. Wow. E come vedi, Viola, quindi la storia è finita. Sì, è finita al lieto fine, cioè almeno intendo. Apparentemente ho avuto il mio piccolo riscatto sul Fazioli, sì. Ripetiamo, piano di pregio, pianoforte di pregio, che quest'anno era nuovo e non si poteva toccare. Io avrei una domanda però per lei, maestro, perché sì. Io in questa seconda fase, mentre prima mi preoccupavo del Suarez e tutta la sua storia col piano che è andata a finire bene, e adesso mi preoccupo per i francesi positivi. Allora, e... sì, infatti è diventato sarebbe un anche thriller. Utile. Sì, sarebbe forse utile anche fare un disclaimer, perché poi abbiamo parlato anche di un facchino che poi in realtà esatto, falso positivo. Al molecolare risultato negativo, insomma, poi comunque se sono anche qui tutto così arzillo a parlarne è perché non è successo niente, se non il fatto appunto di quel giorno che è stato un po' così di attesa e soprattutto quello del giorno famoso sabato de fuego con tutti i cubani che saltando un gruppo, augurando a tutti ovviamente di stare bene, dal nostro punto di vista è stato, non dico una fiesta, però è stato, mi ha dato modo ecco, anche di continuare a documentare questa, perché cioè, raga, se, io ripeto, è stata un'edizione leggera di Umbria Jazz, in un altro anno se avessi portato un registratore mi avrebbe veramente fiondato di sotto al secondo giorno, quindi ringrazio ancora i miei compagneros che hanno sopportato, voi che avete sopportato tutto questo reportage che è solo al suo secondo capitolo. Ma è un piacere. E invece di mettere quello che volevamo mettere, che cosa potremmo andare a dire? Adesso c'è niente. Adesso c'è la mia rubrica. Va bene, giusto? Va bene. Va bene, no, quello volevo dirlo nel senso okay. In maniera anche un po' con la solita formula. Sigla, cioè quindi sì. Nel senso avevamo un pezzo a chiusura di questo Secondo blocco che ci shiftiamo in basso e andiamo a parlare di cultura con la nostra professoressa Viola, che ha una sua rubrica degna sì. di nota, con una sigla degna di nota che sì. è al suo comando. La rubrica Music and Poetry, sigla! Lasciatemi leggere, sentire questa poesia, vorrei e non so leggere. Questa poesia. Orbene, chiedo scusa per il lancio un po' così, quando mi senti che farfuglio è perché non ci sto vedendo niente lì sul. Tranquillo, maestro, non ti preoccupare. Allora, oggi la poesia è una poesia in dialetto romanesco, mi cimento in questa cosa, siate magnanimi con me. E allora, il poeta è Trilussa e il titolo della poesia è La violetta e la farfalla. Oh. Una volta una farfalla, mezza nera e mezza gialla, se posò sulla viola senza manco salutarla, senza dirgli una parola. La viola, dispiacente d'esse tanto trascurata, glielo disse chiaramente: quanto sei maleducata, ma pigliato niente a niente per un piede d'insalata. Io so il fiore più grazioso, più odoroso d'esto mondo, so ciumaca e non ceposo, so carina e manniscono. Non mi importa d'esta accanto all'ortica e la cicoria, non me preme, io non c'ho boria, so modesta e me ne vanto. Se so fresca per un sordo, vado in mano alle signore, appassita so un ricordo, secca, curo e raffreddore. Prima o poi so sempre quella, sempre bella, sempre buona, piace all'uomini, alle donne, a qualunque sia persona. Tu, d'altronde, sei una bestia, non capisci certe cose. La farfalla gli rispose: accidenti, che modestia. E non posso dire, ma come fa? Devo dire, ma come fa? Ma come le fa? Tutte. Come sono andata, amici romani? Allora, ho contato soltanto un paio di chiuse che non mi tornavano, che era un po' come. Però, okay. Cioè, assolutamente poi. Mi fa piacere che ti metti anche tu nella cerchia degli artisti che si spendono la romanità. Sì, mi fa piacere perché comunque Roma. Quest'anno sono 10 anni che sono a Roma. A settembre saranno 10 anni. Sì. E niente, sono. Inganneresti anche tua madre. Sei stata veramente una grande interprete di questo. Grazie, progetto. Gabi. L'hai fatta veramente come diceva prima il fonico lì, com'è che si diceva? A modino, anch'io, grazie. Noi abbiamo tirato sulle palette con il voto, ma le potete vedere solo su Music Forte. La felicità fa di emozioni in punta di piedi. Scusate Fabio, Fabio, gente Fabio. Rotta, oh, così, stavate dicendo, non volevo. Ti rimetta la prova, ci provo. No, vabbè, la... Sederti a leggere all'ombra di un albero rilassa e libera i pensieri. Era sempre per non rimanere incompleti. Grazie. Comunque ripeto, complimenti a Viola che ha anche seguito il consiglio nostro di inizio anno. Se ricordate abbiamo detto che vari artisti per la regola dei 70 anni adesso sono di pubblico dominio, e quindi ne ha già approfittato la Molisana di Trilussa e ne approfitta anche la nostra professoressa Viola per riportarlo a sinistra dove non si può. E, va bene, detto ciò ringraziamo la professoressa per l'arricchimento. Grazie a voi come sempre. Non ci abituare male che ce ne porti solo una. Abbiamo due alla volta perché se no ecco. Diciamo che io speravo in questa diretta perché sono stata a casa giù a Salerno, dove diciamo ho una famiglia un po' numerosa, e praticamente non ho avuto modo di registrare, se mai ci fosse stata una puntata post prodotta, ma fortunatamente ci siamo rivisti, mi fa super piacere, e anzi la prossima volta vado nello scantinato, alla fine nello sgabuzzino sottoterra, forse là riuscirò a non essere... naturale. Quindi per la prossima volta prometti che ci porti una cosa anche per i più piccini. Per i più piccini, ok, va bene. Niente, era solo per fare questa cazzata, lo sapevi benissimo. Eppure ci sei venuta. Ci sono cascate di nuovo, sì. Vabbè, per la prossima puntata abbiamo una sorpresa, perché Silvano dirà una poesia in salernitano. Sì, però solo sotto la leggida di Stick. Allora, ti posso dire però il poeta? Vuoi un suggerimento? Sì, me lo suggerisco. Allora, Alfonso Gatto, che è di Salerno? Eh sì, certo. Va benissimo. È subito crossover. E Alfonso Gatto sia. Io comunque ho fatto una ricerca, c'ho un Silvano d'epoca. Lo posso mettere? Ma metta, se interessante. Metta, non è, cioè, non è una lettura. Che cos'è? È un pezzo che si chiama Let Down. Ma non è suo. No, assolutamente è del suo gruppo preferito. Transport motorways and tram lines, starting and the stop. forte, 100 celle Avenger, è molto meglio di qualsiasi cosa abbiano lassù. Ma che bello stacchetto, ma chi è il DJ? Ah, sono stato io, scusate. Vabbè, è stata un po' una gamba tesa sulla stessa poesia di Silly, che comunque era un pezzo di Radiohead. Vabbè, succede così quando parti un quarto d'ora dopo. Noi di Oxford ci tagliano i pezzetti. Questo basso è stato un regalo di compleanno, tra l'altro, che è stato fatto a Silvano. Vabbè, perché a me i radio non piacciono. Ci mettiamo a parlare di scusate. Comunque, is the beautiful of the direct, yes. Ma tutto per fare spazio allo stesso Silvano medesimo, che adesso parte col suo rubricone, che si chiama Silly. Oh mio Dio. E, sigla. C'è qualcosa che vuoi dire prima che io faccia? Nulla, dice. Oh mio Dio. Allora sigla. Quindi buonasera, siamo qui ad Assilli con il maestro di musica Antonio. Ciao, ciao, buonasera a tutti. Antonio, cosa insegni nella scuola di musica del forte? Allora, io insegno basso elettrico nella scuola di musica del forte. Antonio, tu come sei arrivato? Come ti sei approcciato alla musica? Allora, io sono partito da Sapri, che è un paesino in provincia di Salerno. Ho iniziato che guardando Top of the Pops il sabato. E un giorno, non so perché, mi è presa così, sono andato da mia madre e ho detto: ma voglio suonare il sassofono. Che è una cosa senza senso, perché poi non ho mai più suonato il sassofono, non l'ho toccato praticamente. Perché l'unica scuola di musica che c'era in zona mia era una scuola di musica che c'aveva una banda pure, no? E niente, sono arrivato là, e il primo anno mi hanno fatto fare solo solfeggio. E poi nel momento in cui c'era da passare allo strumento, dopo un anno ti facevano fare lo strumento, ma vado dalla tromba. Senza nessun motivo, che dicevano che le mie labbra erano fatte per la tromba e non per il sassofono. E dopo un po' volevo però connettermi un po' più con i miei coetanei, no? E quindi ho formato una band con gli amici miei. E lì ho voluto suonare il basso perché la chitarra mi sembrava tipo suono la chitarra, la volevo fare alternativo, no? Quindi ho iniziato a suonare il basso e poi mi sono innamorato dello strumento. E niente, quindi c'avevamo questa band, poi ho avuto diverse band lì al paese mio, tra cui una band che si chiamava Dying Breath, che eravamo troppo forti, cioè, ti dico la verità, troppo forti, ci divertivamo troppo, perché poi avevamo alla batteria magari anche Davide Savarese, che adesso è uno dei più grandi batteristi in Italia, secondo me. Sì, sì. E da lì quindi ho visto che c'era potenziale sia per me che per lui, e quindi insieme abbiamo affrontato questa cosa di provare a renderlo un lavoro, no? Venendo a Roma e frequentando l'Accademia del St. Louis. Perché poi lì è stato divertente il fatto di approcciarsi insieme, cioè, ad altre persone, è una cosa che piaceva a tutti, no? Che era la musica. Quindi là siamo venuti a Roma 10 anni fa oramai. E niente, da lì ho iniziato a conoscere sempre più persone, a suonare sempre più in giro, e da lì la passione è aumentata. Allora, parliamo un po' di nomi di gruppi. Allora, qual è stato il primo gruppo che ti sei fatto col Savarese a Roma? Quelli che adesso si chiamano attualmente Laterat. All'inizio si chiamavano Two Human e poi il nome è cambiato in Laterat. E quella è stata, penso, l'unica band che in realtà ho avuto a Roma, mia personale, cioè che ho fondato io con Davide. Ed era un gruppo particolare perché era tipo progressive metal con due bassi, una roba mai vista, così senza senso. Però era divertente, con loro ci siamo tolti un sacco di soddisfazioni. Quindi quella è l'unica band che ti sei fatta a Roma fondandola, diciamo, tu. Sì. E poi altre esperienze invece come musicista che hai fatto dopo? Beh, diciamo che il St. Louis comunque già di per sé ti mette davanti alla possibilità di fare un sacco di esperienze. Grazie a loro ho suonato all'Auditorium, al Parco della Musica. Ho suonato nella big band del St. Louis come bassista e come trombettista pure nella formazione più piccola, Little Combo. Ho suonato in diversi, un sacco di locali qua a Roma in realtà, ma anche manifestazioni più grosse. Cioè, diciamo. Poi da là ovviamente ho fatto il bassista anche per qualche altra band, ma anche tipo band formate stesso nell'Accademia del St. Louis, no? Magari, oppure sostituivo gente che non c'era quel giorno. poi ho iniziato a suonare i matrimoni magari, no, quello comunque mi ha fatto un sacco di bagaglio, mi ha fatto suonare con un sacco di persone diverse e poi è quello il bello della musica, no? Certo. Che suoni con un sacco di persone diverse. Ed è così che si fa l'esperienza, è così che poi si diventa professionisti, perché insomma poi è quello che avete scelto di fare partendo da, da sì, giù. Sì, esatto, eh. Cioè, è un percorso difficile quello del professionismo, perché sia chiaro, non ci abbiamo visto una lira per un sacco di anni. Però adesso piano piano ci sono le soddisfazioni ci sono, anche da quel punto di vista. Poi io adesso totalmente, attualmente ho un po' cambiato proprio, cioè ho un po' abbandonato la musica suonata e mi sono avvicinato un po' di più alla produzione in studio. Com'è successo sto passaggio? Praticamente dopo che mi sono laureato a St. Louis, in basso, sentivo che non potevo esplorare la musica al 100%, cioè era come se lo strumento mi stesse imponendo un paletto e mi sembrava un po' limitante, alcune persone lo vedono molto in linea con quello che sono, no? Magari certo. Ci sono dei musicisti che fanno solo quello e suonano un sacco in giro così. Io però volevo entrare in un rapporto un po' più intimo con me stesso e con la musica. E quindi ho iniziato a produrre perché non c'è niente di più intimo di creare le tue canzoni, fondamentalmente. Ma si tratta anche una questione di controllo, cioè di libertà, non so come dire, perché comunque se tu ti devi occupare solo del basso vuol dire, come dicevi prima, che sei limitato. Questa cosa tu l'hai sentita un limite perché tu sei una persona che pensa pure molto all'armonia, a quello che succede in un pezzo. Sì, ma pure alla una questione proprio di anima, non so come dire. Cioè nel momento in cui fai una canzone che o un brano elettronico, quello che è solo tuo, cioè quella roba è solo tua. Quindi per me era come mettermi a nudo all'inizio, certo. Ho fatto anche abbastanza fatica poi a far sentire le mie cose ad altre persone, perché mentre in una band dici vabbè c'hai il supporto di tutti quanti gli altri, lì sei da solo, non sai se una cosa spacca o non spacca, se soltanto si piace a te o meno. E quindi per me è stato figo ed è quello che poi cercavo in tutti questi anni, cioè io chi sono, come mi esprimo io nella musica a 360 gradi però, cioè non soltanto bassisticamente. E poi però c'è stato un passaggio ulteriore, perché appunto prima, tu adesso stai parlando di un progetto ad esempio tuo, totalmente tuo, stiamo sentendo infatti Half-Hype, sì. Che sei tu. Sì, esatto, sono io, poi in realtà collaboro anche con un altro... ex maestro della musica del forte per questo progetto, che è Alessandro Di Sciullo, il fondatore della musica, il bad esatto, della scuola musica forte. Poi è un progetto che adesso ho un po' accantonato perché per questioni lavorative non c'ho tanto il tempo di mettermi là e fare musica elettronica fine a se stessa comunque. Quindi adesso sto più in quella fase in cui faccio il produttore, devo cercare di applicare le mie conoscenze per il bene comune, no? Che è quello dell'artista che viene in studio e che fa il brano, che è divertentissimo allo stesso modo. E quindi nelle basi che facciamo comunque a studio, che comunque siamo un collettivo, no? Siamo due persone, ci chiamiamo Gumma Vibes, facciamo principalmente hip hop, però facciamo anche altre tracce un po' più pop. C'è automaticamente il tuo, cioè non riesci a essere altrimenti, perché poi a una certa la musica diventa così vasta che alcuni paletti li cerchi mezzo, no? E certo. Quindi l'artista che viene in studio e ti mette determinati paletti per te è una sfida, cioè almeno per me è una sfida ed è divertente, nel senso, divertente di sfida. E nel mezzo è sempre un lavoro, no? Quindi a una certa devi scendere a compromessi. Però se ci metti sempre il tuo, questi compromessi iniziano piano piano a affievolirsi sempre di più, ma più che altro perché ti cambiano la clientela, no? Se un artista vuole una base mia è perché sa che viene là e io gli faccio quella cosa perché è la cosa che faccio io, no? Se vuole una cosa diversa, vuole la Macarena, non viene da me. Molti produttori oramai sono conosciuti perché sono artisti in realtà. Prendi Pharrell, prendi Rick Rubin, prendi Kanye, cioè loro sono artisti. Se tu vai da Kanye è perché vuoi quella roba che fa Kanye. E quindi mentre prima era lo studio magari il nome, adesso si è spostato più sul produttore, dato che poi fa tutto con un computer, cioè certo. Basta un Mac e sei andato. Fare il produttore è come fare il musicista? Cioè, un musicista trova il suo stile, trova il suo modo di suonare, molto spesso ispirandosi ad altri. anche la produzione funziona in questo modo. Tu senti i suoni di chi produce, che so, grandi produzioni americane, inglesi, dice, ma sai che c'è, voglio fare sta roba così, la voglio fare pure io. Sì, sì, certo. È quello, cioè, è come se il computer fosse diventato uno strumento per te in quel momento. Il più importante forse, poi, tra l'altro. Sì, esatto, cioè, quindi imparare a utilizzare il computer, ma anche alla fine tu, ognuno c'ha i propri gusti, no? Mm-hmm. Quindi è normale che nel momento in cui c'ho i miei gusti io vado a scegliere dei suoni che rispecchiano quei gusti. Certo. E quindi in automatico è come suonare il basso come Giaco, perché mi piace Giaco. Certo, quindi tu, da insegnante di basso, ha uno studente che deve venire a te a suonare il basso e che ti dice: io voglio vivere con la musica, mi voglio pure registrare i miei pezzi, voglio fare questo. Quanto tempo gli dici di dedicare allo strumento e quanto all'apprendimento dell'uso del computer per il suo strumento? Lo stesso tempo. Ok. Oggi come oggi, lo stesso tempo, perché viviamo in un tempo, in un'era comunque. Che siamo stati un botto di tempo a casa pure tutti quanti, no? Quindi non c'era più quel modo di potersi beccare in sala prove a suonare con le persone. Esatto. Questa cosa almeno a me mi ha fatto capire un sacco che il computer è troppo fondamentale anche per suonare insieme ad altre persone. È un modo migliore per avere questo senso di comunità e impararlo a suonare, esatto, no? Se tanto l'inglese diresti play. Esatto, è uguale. Play dei computer. Esatto. No? E quindi investire lo stesso tempo è utile, ma più che altro perché se sei affamato di conoscenza, una volta che ti approcci a un programma di registrazione come può essere Ableton o Cubase, cioè non c'è mai limite. Quindi l'importante è che, cioè quello che gli risponderei io è che se sei affamato di conoscenza stai già al 90% del lavoro. Già che mi fai una domanda del genere significa che io ti rispondo allo stesso tempo, perché significa che c'è interesse e quindi è giusto che tu porti avanti quella cosa e impari a suonare bene anche il computer, perché ti serve. E poi il computer ti permette di appuntarti idee, no? Tantissimo. Che è fondamentale secondo me, se vuoi fare il musicista come professione, se ami la musica, è giusto che tu non ti perda nel processo, no? Quindi riuscire a appuntare idee, a sviluppare quell'idea è tutto secondo me, perché poi non è soltanto il tuo strumento, ma sei te che appunto fai la musica, no? Ah, c'ho questa linea di basso fighissima, la registro, mo io su questa linea di basso però ci sento una batteria che fa così, faccio pure la batteria, in modo che ho un'idea che magari anche se sono in una band la propongo alla band e la band si fa un'idea chiara. Certo. Cioè è un modo per esprimere meglio le proprie idee. E invece in un collettivo di producer come il tuo, come funziona invece questo processo creativo? Cioè da che cosa si parte in quel caso? Visto che diciamo che non ci sono gli strumenti suonati tendenzialmente, come funziona lì? Da dove si parte in quel caso? Dalla melodia? Da cosa? Ma in realtà dipende. Se per esempio l'artista entra in studio con un brano, no? Dici io c'ho una canzone, pia la chitarra, si mette a cantare con la chitarra mentre si accompagna, ti fa sentire la canzone, quello è il punto di partenza, no? Certo. Se però uno non c'ha per niente idee, allora a quel punto le cacci tu, ma puoi partire da qualsiasi cosa, tipo... Te via rapper, ok, io ho scritto questo rap, però mi serve una base. Là si può partire da una batteria che magari sta bene con il flow del rapper, oppure magari vuole un'ambientazione specifica e quindi si parte dal top, si dice, cioè da tutto ciò che è suonato, strumenti, così. E lì le idee vengono, cioè non lo so, è come andare in sala prove e dice facciamo un pezzo, boh, da che parto, boh. Suona, capito, no? Sì, il procedimento. È più o meno lo stesso. È lo stesso, è lo stesso, perfetto. A questo punto io normalmente faccio lanciare un pezzo all'ospite che è venuto. Per cui io ti chiedo, che pezzo vorresti lanciare? Che mettiamo? Boh, io per una mia cosa personale, è la cosa che ho trovato più personale perché è stata la prima traccia che mi ha fatto dire ok, io voglio scrivere la musica e non voglio solo suonarla. Lancerei Gregor dei Laterat. Gregor dei Laterat. Ah, ricordiamo chi sono i componenti dei Laterat perché sono facce conosciute nella scuola di musica del Forte. Sì, prego. Esatto, c'abbiamo sia il maestro di piano che il maestro di chitarra nei Laterat. Corrado Filiputti alla chitarra e Daniel Mastrovito al pianoforte. Allora, ringraziamo il maestro Antonio e facciamo partire questo pezzo. I'm still waiting for the change. Feels like I'm homesick, laying in my bed. Strange to see your how far we've come, my friend. Way to go. Another story you could understand. Another funny way to learn again. Sure, we gon' take the higher road. And pretend not to break. Every time I should give in, every time I should go, I see my answers waiting in the mirror. Anytime I try to hide the pain from myself, I go far away, just for men. Tireless thoughts can be deceiving, wishing for free to come rescue me. Dreams desperately trying to get ahead. Let them know where to rest. In my arms they stand. Every time I give in, every time I should go, I see my answers waiting in my mirror. Anytime I try to hide the pain from myself, come Big Jim, radio forte, che con player solo quando gioco a presto in notte. Cento celle Ranger style. Ti rendi conto che devi farci una rubrica entro sabato? No, ma che rubrica, oh? Ma stiamo in vacanza! La conoscenza non va mai in vacanza! Sì, sì, e questi me linciano. E stasera è stata la ciliegia sulla torta che ci fa diventare leggende. Benvenuti in questa puntata d'obbligo della rubrica più attesa della settimana. È estate e non mi andava proprio di studiare niente. Poi ci si è messa l'Italia, che ha vinto l'Europeo contro l'Inghilterra, in casa, a Londra. Tutti a dai e giù, ma nessuno che si renda conto di quanto sia difficile per me questo momento. Ecco perché oggi daremo uno sguardo alla visione che i nostri beniamini avevano del bel paese, per mettere finalmente pace fra due fazioni che si sono lealmente sfidate sul campo. E per fare questo ci avvarremo della collaborazione della nostra Alexa. Ciao Alexa, sarà dura trattenere le emozioni per te, immagino. Bentrovati a tutti, è un'emozione fortissima essere qui oggi. Dai è tutta, campioni d'Europa, campioni d'Europa. Spezziamo subito una lancia in favore del nostro Paul, che ci ha omaggiati con il massimo rispetto non troppo tempo fa. Questa era Roma, nel 2003. E adesso una canzone speciale per Roma. One, two, three. Volare, cantare, nel blu, dipinto di blu, felici di stare lassù. We can sing in the glow of a star that I know of, where lovers can find peace of mind. Let us leave the confusion and all disillusion behind. Just like birds of a feather, a rainbow together we'll find. Volare, dipinto di blu, felice di stare lassù. Il blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Volare, volare. Caruccio però. A Paul il calcio piace, ha un temperamento sportivo, è una persona rispettosa. Sentite in questa intervista del 97 cosa disse a Fabio Fazio. Io conosco a Firenze un bravissimo pianista. In France, I know a very fine. Un pianista che conosce tua cognata, la sorella di Linda. No, Linda's sister. That's right, Laura. Laura, no. Che conosce te. Sì. Quindi io ti conoscevo la terza. So I knew you in what is described. In tre passaggi. Three degrees okay. Of separation. Adesso ti conosco la prima. And now I know you in the first degree. E conosco la regina la seconda. And I know the queen at a second degree of separation. Perché tu conosci la regina. Because you've met the queen. That's right. Quindi sono già il mondo ci si conosce anche così. The world is one can get to know the whole world. That is right, yes. Sì, sì. And if you shake my hand. Yeah. You have almost shaken the queen's hand. Esatto, la, mano esatto la proprietà transitiva, esatto, very esatto, exactly esatto, right. La proprietà like transitiva. E invece non posso offrirgli nulla di questo, insomma. I can't offer you anything like this. Okay, la regina non lo mette. Because I've never met the queen. Non so, si conosce. Have you met the Italian football team? Yeah. Ho conosciuto però le squadre sì, italiane. Sì, certo. Well, that's good. I have shaken their hand. Conosci adesso giocano nel Chelsea, Vialli, Zola. Yeah, yeah. There's a lot of Italian players over here now. So you know all these guys, you know Vialli, yeah, yeah. Laszlo, you know all the boys. Yeah. Ho scambiato la regina per Vialli. Ed ora una raccolta delle migliori dichiarazioni dei Beatles sull'Italia. Alexa, a te. Ci piacerebbe sposare Sofia Loren. Sembra una ragazza in gamba. E poi anche una buona attrice. George Harrison e Paul McCartney. A me piace anche Claudia Cardinale. John Lennon. E sulla musica italiana? Ci piace Marino Marini. Ci piace anche Tito Gobbi. Come si fa a scegliere? Ci sono tanti cantanti in Italia. Ringo Starr. Beh, potevi trovare commenti più edificanti. Grazie Alexa. Per concludere con una stretta di mano questa disputa, anche noi ci siamo permessi di omaggiare Sir Paul come lui fece con noi nel 2003. Spazio ai Fake Four. I can't forget the time of Chris when we just met. She's just a girl for me and I got on the world to see we've met. another girl, well, never cried like this. Na na na na na na. Falling, yes, I am falling, and she kept calling me back again. Seen a face, I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me, and I got on the world to see we've met. Na na na. Falling, yes I am falling, and she kept calling me back again. Falling, yes I am falling, and she kept calling me back again. Oh. Torniamo in diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers in ritardo di un quarto d'ora, il che non ci consente purtroppo di ascoltare il terzo capitolo del mattone Umbria Jazz Edition. Ma non temete, ascoltatori, soprattutto voi della squadra di palco che state ascoltando sicuramente, vi saluto Tommy, Willy e Claudio. Ciao, la terza parte andrà in onda nella prossima puntata, peccato perché era la più bella, quella dove arrivava Gabri, c'era tutta una clip, vabbè, non vi sto a spoilerare, lo ascolteremo, ma in compenso abbiamo dal vivo la testimone oculare auditiva dell'Umbria Jazz, che però è qui in altra veste, la Gabri, appunto. Sì, di nuovo buonasera e bentornate e bentornati. Partirei subito allora presentando la sigla di questa quarta puntata dei Cigni di Belacà, la nostra sottorubrica, la rubrica della rubrica, quando mancano 12 minuti alla fine, sigla. Ma papà! Papà, ma non lo senti che è uguale ai cigni dei Balagà? Eccoci per questa quarta puntata, quindi ricordiamo la rubrica che tratta di casi giudiziari di plagi musicali, come non li avete mai sentiti, vi racconta gli accattivanti retroscena di vicende di plagio, quelle che sono approdate nei tribunali e anche quelle però diciamo anche un po' per che nascono un po' dal sentito dire o dal sentito vero e proprio, e si fondano quindi un po' su quelle percezioni, quelle somiglianze che percepiamo tra brani, basta sentirlo. Beh, adesso voglio iniziare con un caso che ci ha un po' forse interessato tutti nell'ultimo periodo, perché riguarda gli europei, appunto, di cui abbiamo già parlato anche nella scorsa puntata. E chi di noi, diciamo, in ogni stacco, ogni pubblicità, stacco fra una partita e l'altra, ascoltando l'inno di questo Euro 2020, esatto, scusa, del nostro grande Bono Vox, non ha subito notato una somiglianza con il brano dei Pinguini Tattici Nucleari, ossia Ringo Starr, che la regia mi favorisce immediatamente. Che prontezza! Madonna, questa è venuta bene, eh? Questa è venuta bene. Bravi. Esatto, io ogni pubblicità quindi stavo là e cantavo. Io comunque a discolpa degli U2 posso dire che se la sono giocata con la classica tecnica di The Edge, del kitikin kitikin kitikin kitikin, con i delay. Sapete che The Edge c'ha 5-6 delay sulla chitarra, che lui fa tre note e la chitarra comincia a fare kitikin, e quindi uguale ha fatto questo kitikin. Però è uguale, uguale. Sì, è proprio uguale, uguale. Penso che l'abbiamo pensato, immaginato un po' tutti, Ringo Starr. E io quello che ho immaginato in particolare è che Bono Vox e Martin Garrix e The Edge si siano semplicemente, diciamo, siano che è successo nel 2020, probabilmente abbiano visto Sanremo, ecco, probabilmente hanno sentito questo brano dei Pinguini Tattici Nucleari, in particolare con Bonovox, dalla sua villa di Killine, dove vive insieme alla famiglia vicino Dublino, magari si è sintonizzato su Sanremo quando fu nel febbraio 2020 e abbia magari percepito qualche appunto questa melodia, poi magari rielaborata a sua volta, e magari ecco è stato vittima di questo meccanismo che io ho trovato, ho scoperto di recente, appartiene al mondo della psicologia, ma è stato mutuato dal mondo del diritto per spiegare proprio che, questi meccanismi che poi a volte portano a situazioni di plagio. E il meccanismo appunto in questione si chiama criptomnesia. Chi? La criptomnesia. Cosa? Anche detto unconscious plagiarism. E che a cos'è? Mia insaputa. Scaiola disse così. Sì. Si definisce criptomnesia il fenomeno per effetto del quale un soggetto genera una parola, un'idea, un brano musicale o anche la soluzione di un problema, essendo convinto dell'assoluta originalità degli stessi, quantomeno nel singolo contesto preso in considerazione. Ma nella realtà il prodotto non è affatto originale, ma è stato creato in precedenza da qualcun altro, ovvero in alcuni casi dallo stesso soggetto che ha perso consapevolezza di ciò. Cioè, in parole povere, tu non sai che quel concetto lo hai già sentito da qualche parte, lo rielabori, ce l'hai nella memoria, nell'inconscio per l'appunto, e lo porti alla luce sotto un'altra veste, sicuramente originale in alcuni casi, in altri meno, che poi è quello che è successo anche al nostro caro George Harrison, al rogo. Cosa ha fatto stavolta? Al nostro ex componente dei Beatles, accusato di aver copiato il suo successo My Sweet Lord da un classico cantato dagli Chiffon, He's So Fine. E lo stesso Harrison si difese ammettendo di aver ascoltato quel brano prima di scrivere il suo pezzo, ma negando di aver copiato di proposito. Infatti, come sappiamo, ne abbiamo parlato nella scorsa puntata, George Harrison è stato poi costretto a pagare il risarcimento dei danni per il plagio involontario di cui, appunto, è stato, per il quale è stato condannato. Andiamo avanti, però, perché come mi rimani sui Beatles, ovviamente. Andiamo avanti, basta Beatles. Allora, basta Beatles, ce n'avevamo un'altra pronta in canna. No, no, è vero, aspetta, non spoilerare prima di quello, però. No, no, figurati, abbiamo tutto il tempo. Beatles. Possiamo anche saltare direttamente al pezzo che ci riguarda. Abbiamo solo 6 minuti. No, io prima veramente volevo citare proprio Daniele Orea, il nostro carissimo, perché tra i vari, diciamo, concetti che ruotano, che gravitano intorno a quelli del plagio, c'è quello del famoso dei tributi, degli omaggi, di cui noi abbiamo parlato già nelle scorse puntate. E intanto chi coglie bene questo concetto di omaggio è una frase che voglio riportare di Edmond Rostand del Cyrano de Bergerac, che dice: poiché il nostro amico si serve dei nostri pensieri, ci dà una prova di stima. Egli non li prenderebbe se non li credesse buoni, e noi abbiamo torto di sdegnarci del fatto che, non avendo figli, adotta i nostri. In parole povere, l'ispirazione che lo è fondamentale. Grandissima, grande. Quindi, come anche ha fatto Daniele Orea nell'ultima serata di Umbria Jazz, a cui ho avuto l'onore di assistere, ne parleremo poi alla prossima volta, lui che ha fatto si è esibito al piano e ha riproposto in una magnifica versione brani di Battiato, di Battisti, Your Song di Elton John, quindi non ha fatto altro che omaggiare questi artisti, come potrei confermare. Sì, no, sicuramente poi Rea cioè il suo bel bagaglio, capace di rimanerti, insomma, di farti lo stesso pezzo a loop per 18 minuti, però con tutte le variazioni, che solo col pianoforte, insomma, con quelle manine piene di dita, bravo. Però sì, comunque questi sono appunto gli omaggi, non plagi, ma omaggi. Esatto, non plagi ma omaggi, lo stesso meccanismo più o meno che possiamo pensare sia accaduto nel caso della Carrà con i Beatles. Calla. Cinicamente ci giochiamo e tornano i Beatles. E questo si conosceva. Voglia di ballare con te. Fa parte delle istanze del popolo, arrivate dal popolo. Questo fa parte delle istanze venute dal popolo. Al nostro avvocato, che le analizza e decide se non siano già cose dette e stradette tipo questa, però vabbè. Sì, di questo sicuramente si è parlato. Non è approdato in nessuna aula giudiziaria, non mi risulta, ma probabilmente con la Carrà avrà proprio voluto tributare, omaggiare i Beatles nella composizione. Questa canzone della Carrà, diciamo, è stata proprio fatta riproposta, non era vero, non era riproposta negli anni da Nonella Rai, quindi mi chiedo, cioè il programma più visto. Esatto. Dico, no, ma hanno anche avuto delle collaborazioni proprio con alcuni dei Beatles, insomma, era sicuramente tutto alla luce del sole. Allora, diciamo che non era vero la cosa della sigla, però era effettivamente un'esortazione a andare a chiudere. Sta per finire il tempo, giocare 4 minuti. Terza cartuccia. Allora sì, volevo parlare della più bizzarra e progressiva delle metamorfosi di un inno della sinistra, che è quella relativa a Bandiera Rossa, ecco, quando si tratta di rispolverare antichi inni, ma come fu nel caso rossa? Di esatto. Sta per ripartire, non è Bandiera Rossa, attenzione, non è Bandiera Rossa. È tutto inconscio, capito? Perché quando è uscita Bandiera Rossa, che risale al 1908, la versione socialista di Carlo Tuzzi dopo la rivoluzione bolscevica, tutti sappiamo l'inno, ma non lo canteremo data la scarsità di tempo. Nessuno poteva immaginare che il rosso di quella bandiera sarebbe poi passato a identificare il colore dei capelli del cartone animato più amato dai bambini degli anni 80. Sto parlando di Anna dai capelli rossi, naturalmente. Esattamente, esattamente ciò che Silvano non voleva farci sentire, Anna dai capelli rossi, che ha chiamato dei bambini degli anni 80. La sigla di Anna dai capelli rossi, okay, composta nel 1980 dal maestro Vince Tempera, è identica a Rivers of Babylon, incredibile, niente proprio di meno, che è un brano inciso originariamente nel 1970. Lo conosciamo tutti. È portato al successo dall'interpretazione di Bonnie M. E Tempera raccontò di essersi accorto che Rivers of Babylon nasceva dal raddoppio delle note di Bandiera Rossa. Incredibile. Quando mancano 3 minuti. Sì, e di aver usato lo stesso espediente per creare la sigla di Anna dai capelli rossi. Un'altra vicenda, quindi assolutamente alla luce del sole, anche perché nessuno ha contestato mai la somiglianza di questi pezzi. Quindi è andata così. Non è né il primo né l'ultimo dei casi italiani di somiglianza, però che nessuno ha mai fatto valere, evidentemente. È diventato un omaggio. È diventato un omaggio. Bene, con questo omaggio direi che potrei mettere una Bemba colorata, tanto per ricordarci di un tormentone sempre dell'Umbria Jazz di quest'anno, che ci fa da solo da sottofondo, quindi più bassetta, la mettiamo così un po' più, e ci andiamo a salutare con un ritmo così fuori dal nostro ordinario, e darci appuntamento, chissà se fra 2 settimane, no, forse una, ce le giochiamo queste ultime spicci di agosto, e chissà, comunque sempre su Radio Forte 100 Celle Avengers dalle 5 alle 7 di sabato, e la puntata la troverete anche in podcast sul sito radio, sì, ciao, sul sito fortepremestino.net/radio, e questo pezzo è la Bemba Colorà. Evviva Umbria Jazz! Ciao a tutti! Ciao! Keep it up.